Io sono l'uomo della donna che tu vedi e senti già da qualche mese. Penso tu conosca già il mio nome, ma non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere. Se vuoi ti dico dove l'hai portata a cena questa sera e in quale hotel. So molto bene come lei fa innamorare un uomo con le sue parole. La sua bellezza ti cattura, lo capisco, è quello che è successo a me. Sa fare dolce quell'amaro che ti lascia dentro quando sei da solo. Ma poi ti accorgi quanto vuoto senti addosso dopo un'ora che non c'è. Ti ha detto mai sognava un giorno di settembre di salire su un altare, avere casa per noi due, fare la spesa e figli da portare al mare. Ti ha detto mai che mi stringeva e mi diceva cosa hai fatto alla mia vita. Se un giorno tu mi lasci per un'altra io ti giuro la farò finita. Sarà meraviglioso crederle. Puoi soltanto riempire il suo letto, ma il cuore no. È vero che l'amore non si può insegnare, ma si può solo imparare. Non sono i passi che puoi fare, quel che conta è quali impronte puoi lasciare. Se solamente immaginassi nel suo cuore, non sai quante ne ho lasciate. Sveglieresti proprio adesso in piena notte rimandandola da me. Ti ha detto mai per cena due panini e poi fare l'amore sul divano. Chiudiamo il mondo fuori alla finestra, noi non ci saremo per nessuno. Ti ha detto mai dei nostri viaggi e le promesse fatte dentro mille chiese, lasciando due iniziali chiuse da un lucchetto e chiavi già buttate via. Ti ha detto mai facciamo l'unica valigia e due biglietti solo andata. Ci accompagnava sempre quella stessa luna illuminandoci la strada. Ti ha detto mai che aspettavamo già un bambino e l'ha perduto sulle scale. Sicuramente quel fortissimo dolore l'ha portata lì da te. Sarà meraviglioso crederle. Tu fai bene, continua a sognare per sentirti il suo uomo migliore. Potrai solo riempire il suo letto, ma il cuore no.